corrisposto un cuore teme ancor del suo amore. Se un altro è malgradito, prova il martir del barbaro cocito. Nel mar d'amor, nel tutto vento scoglio, e vedo ben chiamare un grande imbroglio. Quinteso piacento come